Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivenni. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica da Bologna e la trasmissione che sta iniziando come ogni venerdì alle 10.30 mattutine si chiama Città Fujiko Live Club. Ogni mercoledì un paio di ore di musica registrata dal vivo, rigorosamente ufficiale, niente bootlegs e di ogni genere, di ogni epoca. E Città Fujiko Live Club inizia sempre tasche permettendo con una novità e oggi abbiamo una cosa veramente succulenta ad opera di una grandissima band, molti la ritengono la rock and roll band migliore del mondo, sicuramente forse non è la migliore ma è sicuramente la più longeva, quella che ha avuto un livello qualitativo altissimo durante tutti i 60 anni della propria carriera e che continua imperterrita a produrre concerti e prossimamente anche un nuovo album. Avrete già capito, naturalmente sto parlando dei Rolling Stones che sono veramente dei grandissimi. Negli ultimi anni hanno rispolverato un sacco di album dal vivo dal loro immenso archivio e quello che vi presento oggi è l'ultimo uscito in ordine di tempo, è un album che si chiama GRRR Live con tanto di punto esclamativo, è un doppio album live appunto che fa il paio con un'antologia che uscì qualche anno fa che si chiamava semplicemente GRRR e un'antologia doppia che però in un'edizione limitata aveva allegato un dischetto dal vivo e diventava così tripla. Questo GRRR Live è stato registrato nel corso di un concerto del 15 dicembre 2012 al Prudential Center di Newark, nel New Jersey, ed è una serata un po' particolare perché i Rolling Stones ospitano diversi artisti. È capitato spesso che i Rolling Stones nei propri concerti ospitino un artista, due al massimo. Qui ne abbiamo diversi, a cominciare da Lady Gaga, continuando con John Mayer e Gary Clark Jr., continuando per i Black Keys, continuando ancora con il ritorno di Mick Taylor, che è stato per qualche anno chitarrista della band dopo l'allontanamento e la conseguente morte di Brian Jones. E last but not least, come dice lui, Bruce Springsteen, che essendo nel New Jersey gioca assolutamente in casa. E da buon springsteeniano non posso non farvi ascoltare questo duetto fra Bruce appunto e Rolling Stones, il pezzo si chiama Tumbling Dice. Rolling Stones live con ospite Bruce Springsteen. Questo era un pezzo che si chiama Tumbling Dice. Bruce non è esente da omaggiare i Rolling Stones in concerto nel corso della propria carriera, spesso, soprattutto negli anni 80, all'inizio negli anni 80 faceva Street Fighting Man, qui in questa occasione appunto invece Tumbling Dice dall'album che si chiama Rolling Stones Grr Live, che è la novità che vi propongo quest'oggi. Come dicevo in precedenza, l'album è stato registrato nel New Jersey, un piccolo stato che è il quinto stato più piccolo di tutti gli Stati Uniti, a sud di New York. Se siete stati in New York l'avrete sicuramente visto al di là del fiume, ed è però quello che ha la densità di popolazione più alta in assoluto di tutti gli Stati Uniti. Perché? Perché è semplicissimo: New York, nello specifico l'isola di Manhattan, ha prezzi esosi, ma anche tutti i dintorni, tutti gli altri boroughs di New York hanno prezzi notevoli, per cui la gente per molto tempo è andata ad abitare nel New Jersey, che da quando poi c'è il tunnel è diventato abbastanza semplice in termini americani. Ci vuole sempre un'oretta e mezza, ma per gli americani è roba da ridere. E quindi ci focalizzeremo in questa prima parte della trasmissione su album, brani che sono stati registrati in questo stato, che è uno stato molto musicale. Vedremo dopo, ha dato vita a tantissime bands, a tantissimi musicisti. Però andiamo ad iniziare come sempre con due esponenti musicali britannici in trasferta naturalmente nel New Jersey. E iniziamo con una band storica che tutti conosciamo anche qua in Italia, grazie a un grande successo che uscì nel 67 e li fece conoscere anche da noi, che si chiama A Wider Shade of Pale. Avrete già capito, sto parlando dei Rolling Stones, dei Procol Harum, che sono praticamente finiti nel 2022 con la morte del leader Gary Brooker, ma che hanno lasciato della musica indelebile nel corso degli anni. Qui siamo nell'ottobre del 75 al Capitol Theater di Passaic, New Jersey. Ricordatevi questo nome, ne abbiamo già parlato spesso, perché è un locale veramente storico e veramente topico per quel che riguarda la musica americana. Siamo nel 75, ma questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare è molto più vecchio e lo conoscerete senz'altro. Procol Harum, si chiama A Salty Dog. I'd play this one which does date back a few years, but find that Let's play this. BJ gets upset because he likes to do a couple of rolls in this one. We thought we'd change the key at the end to make it more difficult for me to sing it. Sound of the waves. All hands on deck. We've run afloat. I heard the captain cry. Explore the ship. Replace the cook. Let no one leave alive. Cross the strait. Oh, Il secondo album live nella discografia dei King Crimson si chiama semplicemente USA ed è stato registrato proprio nel New Jersey, in questo caso esattamente al Casino Arena di Asbury Park, nel giugno del 1974. La formazione che ci siamo ascoltati è quella che vede impegnati John Wetton al basso e alla voce, Dead Cross al violino e al mellotron, Bill Bradford, entusiasmante come sempre, alla batteria, e naturalmente immarcescibile il grande Robert Fripp. King Crimson, il pezzo era Lark's Tongue in Aspic, Part 2. Here's a little Asbury Park kind of song for you. Some New Jersey rock and roll for you. Essendo di Norfolk, Virginia, il buon Clarence Clemons, detto anche Big Man, si può ritenere a buona ragione un musicista del New Jersey, data la sua lunghissima militanza nella E Street Band di Bruce Springsteen, però questa militanza gli dava anche il tempo, la possibilità di produrre in proprio. Ha fatto qualche album in studio e soprattutto un paio di album live che si chiamano Live in Asbury Park Volume 1 e Volume 2, sono usciti in due tempi diversi. Questo era il volume 1 con un brano che a suo tempo, sto parlando degli anni 70, inizi anni 80, apriva la seconda parte dei concerti di Bruce Springsteen, The E Street Band. Si chiama Paradise by the Sea, lui si chiama Clarence Clemons. E il New Jersey è naturalmente una fucina di talenti praticamente infinita. Citerò solamente un paio di nomi: Bon Jovi e l'altro non me lo ricordo più. Comunque una band molto famosa, un'alternative band molto famosa. Quando mi viene in mente ve lo dirò. Andiamo ad ascoltarci Sauce e Johnny, un fratello per quel che riguarda Bruce Springsteen, e sui Asbury Jukes hanno visto passare fior fior di musicisti, fra cui anche Little Steven, che poi sarebbe andato appunto nella Lee Street Band. Storia un po' strana questa di Heart of Stone Live, perché l'album originale uscì nel 1975. I diritti dell'album sono tuttora purtroppo della casa discografica. Sauce e Johnny ha chiesto centinaia di volte di ripubblicarlo perché era richiesto dal suo pubblico. La casa discografica ha sempre risposto negativamente. Allora il buon Sauce e Johnny cosa ha fatto? Ha inciso l'album intero, dall'inizio alla fine, dal vivo. E siccome i diritti della casa discografica erano sull'album, non sulle canzoni, l'ha pubblicato in sé in maniera propria, e da quel momento le canzoni sono praticamente diventate sue. Ce ne andiamo ad ascoltare, è la title track, si chiama proprio Hearts of Stone, Sauce e Johnny and the Asbury Jukes. This next song needs no introduction, one of the great songs. Thank you, Bruce. Try so hard to see her the way things were when we were at your place, and every day was just you and me, girl. And you cry because things ain't like before. But don't you know it can't be that way. This is the last dance, it's the last chance for hearts to stone. There was something now, baby, that I could do just to make it last, you know I would. You should know better than the thing can return to the past. Better close your eyes and I'll be there. I'll hold you once more. I won't go anywhere. I wish I could, baby. I can't talk now, I'm not alone. Better put your ear. It's our last chance for hearts to stone. Yeah.

E questo era Garland Jeffries, un personaggio che viene da Brooklyn, New York City, ha partecipato a quell'immenso calderone musicale della città che non dorme mai, come si suol dire. Era molto amico con Lou Reed, John Cale, e nelle sue brani racconta appunto dei problemi razziali. Lui è misto tutto, non è nero, non è africano, non è asiatico, non è bianco, però è tutte queste cose messe insieme, e i suoi testi appunto parlano molto di questo, di questo problema razziale che lui ha sempre subito. E si è ritirato nel 2012, ma ha fatto in tempo a pubblicare questo album che, fra parentesi, è parzialmente stato registrato in questa giornata, e infatti tornerà dopo. Ci sono due ritorni oggi in Recorded Today, Garland Jeffries e i Procol Harum, che ci ascolteremo dopo appunto. Il pezzo che ci siamo ascoltati è il pezzo che si chiama 35 Millimeter Dreams, e lui si chiama Garland Jeffries. E naturalmente New Jersey è la meta di tantissimi, tantissimi musicisti, tantissime bands, non ultimi i miei amati Fish, che ci andiamo subito ad ascoltare in uno dei tanti album live che si possono scaricare direttamente dal loro sito o comprare in CD, come è in questo caso. Il pezzo che ho scelto per voi, loro sono Fish, registrati in quel di Camden, nel New Jersey naturalmente. Il pezzo si chiama Timber. Loro sono Fish. There's a mouse staring out of the window. His car is trapped in the snow. He's planning a family vacation, but he just can't go. Around the next corner's a river. His feathers are trapped in a sling. Scratched by some gunslinger parrot. He's jealous, he ain't got no grip. There ain't no time to stash the gumbo or rattle around in a cage. Sacrifice jaws made bubbles. His fill is everywhere in rage. In a hot sand, I rent on my feet. They blister a cake with debris. Chevrolet is guarding the tour for my angry girls with glee. He's a fool writing memos on sandpaper. He's sending them off to himself. He gets them a couple days later. He'll put them along his top shelf. In a week he'll get tired of shavings. He'll carve up a good hunk of wood. Remember to check on the sausage. He's got cooking somewhere but good. Ain't no time to stash the gumbo or rattle around in a cage. Sacrifice jaws made bubbles. His fiddle is everywhere in rage. In a hot sand, I rip out my feet. They blister a cake with debris. Chevrolet is guarding the door for an angry Leo. Sacrifice jaws made bubbles. His fiddle is everywhere in rage. In a hot sand, I ran on my feet. They're blistering cake with debris. Chevrolet is guarding the toe port while angry diddles with glee. There ain't no time to stash the gumbo or rattle around in a cage. Sacrifice jaws made bubbles. His fiddle is everywhere in rage. In a hot sand, I ran to my feet. The glycerin came with debris. Chevrolet is guarding the toe port while I'm ready. Abbiamo chiuso il cerchio tornando a Passaic, al Capitol Theater, dove eravamo partiti insieme a Procolarum. Questi invece erano i Mountain, la band che Felix Pappalardi, bassista, cantante, nonché produttore di una parte di Disraeli Girls dei Cream. Pappalardi fu talmente entusiasta dell'esperienza con i Cream che fondò egli stesso questi Mountain sulla falsa riga, proprio a fotocopia dei Cream, cioè basso, batteria e chitarra. Fra l'altro grande chitarrista Leslie West. Il brano che ci siamo ascoltati è il loro classico dei classici, si chiama Mississippi Queen. E abbiamo iniziato la seconda parte di Città Fujiko Live Club di oggi, 22 marzo 2023, con la novità che vi propongo in questa trasmissione. Rolling Stones, l'ultima uscita discografica live, si chiama Girl Live ed è stato registrato il 15 dicembre del 2012 in compagnia di tanti ospiti. Tipo quelli che sono arrivati con questa Who Do You Love, un classico di Alex McDaniels. I due si chiamano Dan Auerbach e Patrick Carney, che molti di voi conosceranno in realtà come Black Keys. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora una volta vi dirò che ci sono tantissime cose registrate in questa giornata, per cui il criterio di scelta è sempre quello, un brano per ogni decade. E a volte per motivi più strani ci sono molte cose registrate nello stesso giorno, nella stessa decade, ma o sono troppo lunghi o sono troppo corti o hanno cose al proprio interno particolari, non molto radiofoniche, diciamo così, soprattutto il mattino. E per cui quest'oggi, in via del tutto eccezionale, come vi dicevo, ci saranno due ritorni rispetto alla prima parte. Ad iniziare sono i Procol Harum con una registrazione del 1974 realizzata al Golders Green Hippodrome di Londra. Golders Green è uno dei grandi sobborghi della grande Londra, e in quell'occasione appunto i Procol Harum erano in concerto. E il tutto fu registrato dalla BBC per la trasmissione BBC Radio 1 Live in Concert. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare dai grandi Procol Harum è uno dei loro più grandi classici. Si chiama Grand Hotel, 22 marzo 1974. Sweet eyes at Hotel Ritz. The night, sweet eyes. 22 marzo 1974, secondo giorno di primavera, Procol Harum in concerto a questo Golders Green Hippodrome, che per qualche anno è stato uno dei locali più trendy, diciamo, della Swinging London, e anche anni seguenti, appunto siamo nel 74. Grand Hotel è uno dei grandi classici dei Procol Harum ed è sempre un grande piacere, almeno per me, ascoltarla. Secondo ritorno di oggi, ve l'avevo preannunciato, Garland Jeffries, un personaggio che andrebbe rivalutato, anche se in realtà lui stesso ha scelto di lasciare le scene nel 2019, dopo aver aperto un concerto per Little Steven and the Disciples of Soul. Poi, come ha detto lui, ha appeso la chitarra al chiodo. E però è stato un personaggio che avrebbe meritato più interesse, più vendite anche e più fama. E ce l'andiamo ad ascoltare. L'album è lo stesso di prima, si chiama Rock and Roll Adult, e se prima il brano era stato registrato nel New Jersey, questo invece è oltreoceano per lui. Siamo in Francia, e il brano che ci andiamo ad ascoltare è quello che dà il titolo a tutto l'album, si chiama Wild in the Streets. Lui è Garland Jeffries, 22 marzo 1981. Street. È stata registrata a Lione in Francia, la title track di questo album si chiama appunto Wild in the Streets, era il 22 marzo del 1981 da Garland Jeffries, personaggio che non mi stancherò mai di ripetere, andrebbe sicuramente rivalutato e riscoperto. Chi non ha bisogno di essere né rivalutata né scoperto sono i grandi Black Crowes, che pubblicarono alcuni anni fa un cofanetto, che anzi molti anni fa oramai, un cofanetto che si chiamava Show Enough. Erano 5 CD, nel box erano compresi i primi 4 album della band, più un live EP, che è quello che interessa a noi perché è stato registrato al Beacon Theater di New York City, naturalmente, fra il 18 e il 22 marzo del 95. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è quasi sicuramente stato registrato il 22 marzo, da quelle che sono le mie informazioni, ed è uno dei loro grandi classici. Un piccolo parentesi, nei Black Crowes è uscito un nuovo album live che racchiude il loro tour che abbiamo visto anche in un recente passato e che comprendeva tutto il loro... Scusate, un piccolo impasse vocale, che comprende, come vi dicevo, tutto il loro primo album più alcune altre cose eccellenti, quindi non perdetevelo, sarà prossimamente oggetto di novità per quel che riguarda Città Fujiko Live Club. Intanto ce l'andiamo ad ascoltare in questo loro grande successo, Black Crowes, era il 22 marzo del 1995, il brano si chiama Remedy. you very much. Y'all take care. See ya. Si sono presentati da soli, questi erano Green Day, l'album, anzi il mini album a dire il vero, dal quale tratta questa Charge on Sunday. Si chiama Tune in Tokyo perché è registrato in città giapponesi che non sono Tokyo, in attesa di arrivare a Tokyo, per cui il gioco di parole su accordiamoci sull'accordatura per Tokyo, per poi suonare a Tokyo, in realtà nasconde il fatto che sono stati registrati non a Tokyo. In particolare questo brano, che è quello che apre questo mini album, è stato registrato a Fukuoka. Non chiedetemi dov'è perché non ve lo saprei assolutamente dire. Green Day, che ha avuto un successo mondiale con Dookie e con American Idiot, sono attivi, ma certamente lo saprete meglio di me, dal 1987, e i loro primi anni sono stati caratterizzati da una pletora di album, mini album, singoli con brani dal vivo. Poi hanno smesso di farlo e la cosa mi dispiace veramente tantissimo. Forse non ho detto che questo brano, lo ripeto, si chiama Church on Sunday, è stato registrato il 22 marzo del 2001. A concludere i Ricordi Today di oggi arriva una band dall'Islanda, da tanto tanto tanto su, come si suol dire. Si chiamano Of Monsters and Men, una band che è definita folk, ma diciamo che fa un po' di tutto, ma fa parte di quel calderone musicale islandese del quale uno di questi giorni parlerò più diffusamente. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Little Talks, è contenuto in uno dei volumi di una serie che si chiama Cave Fog Live from the Archives, esattamente il numero 19. Cave Fog è tuttora una radio di San Francisco in California, però ha cambiato proprietà e quindi hanno cambiato anche il genere musicale, il target musicale e il target di audience al quale si dedicano. Però ai bei tempi, quando facevano questi volumi, loro organizzavano un sacco di concerti e avevano addirittura creato uno spazio proprio, un teatrino proprio all'interno della radio che si chiama K-Fog Play Space, e nel quale appunto il 22 marzo del 2012 Of Monsters Men suonarono. Questa Little Talk era il 22 marzo 2012. It's an empty house. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stairs creak as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you, close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see you this way. Cause though the truth may vary, this ship will carry out. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I feel like I'm wrong when I am right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore. Don't listen to a word I say. Hey, the screams all sound the same. Hey, though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All this life is a ghost of you. Now it's torn, torn, torn apart. There's nothing we can do. Just let me go, we'll meet again soon. Now wait, wait, wait for me. Please hang around, I'll see you. Shut up. Ship will carry our bodies safe to shore. Though the truth may vary, this ship will carry our bodies safe to shore. Dall'Islanda of Monsters and Men a concludere Ricordi Today di oggi 22 marzo con questa registrazione del 2012. Il brano si chiama Little Talks. Molto velocemente, perché malgrado sia abbastanza presto, vi voglio far ascoltare un brano che arriverà fino ai 25 sicuramente. E torniamo alla novità che vi propongo quest'oggi, Rolling Stones, si chiama Girl Live, questa registrazione del concerto del 15 dicembre del 2012, con tanti ospiti. Ci siamo ascoltati prima i Black Keys e Bruce Springsteen. Adesso arriva un ex, Mick Taylor. Non vi nascondo che la formazione che vedeva Mick Taylor alla chitarra dei Rolling Stones è quella che preferisco, loro per lo più blues, bellissimo veramente, e com'è bellissimo il pezzo che vi faccio ascoltare adesso. Prima però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 alle 12.25, sempre sui 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di radio Città Fujiko, e naturalmente anche sul web, andando sul nostro sito potete scaricare l'app dove ascoltarci in tutto il mondo. Vi lascio appunto in compagnia dei Rolling Stones, Mick Taylor, con questa fantastica Midnight Rambler. Ciao a tutti da Nevio. Midnight. Yeah, right. Now everybody say, ow! Everybody at the top say, ow!